Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, la nuova poesia del poeta Lorenzo Stocchi dal titolo Cammina l'infelice. Cammina l'infelice, vagheggiando in silenzio versi arcadici. Voi arcadi, trovaste conforto nella natura, nella pace bucolica del locus amenus. Il sole crudele schernisce l'infelice, a lui non giova neppure la quiete silvestre.